l'associazione che porta il nome di mio fratello, l'associazione Stefano Cucchi, ha per me un valore importantissimo. L'esperienza che io e la mia famiglia abbiamo vissuto in seguito alla sua morte, la sua terribile morte, la vicenda che abbiamo intrapreso da quel momento in poi ci ha fatto comprendere tante cose, ci ha fatto comprendere quanto nella nostra vicenda, nella vicenda di Stefano, quanto poco valeva quella vita, ci ha fatto comprendere cos'è la realtà delle carceri e ci ha fatto comprendere cos'è la giustizia. La giustizia ha due pesi e due misure, la giustizia non è uguale per tutti. Stefano è morto anche di giustizia. Ecco, questo è il senso della nostra associazione, questo è il senso di questo manifesto per me e per l'associazione. Sentiamo parlare di tutto in questa campagna elettorale. C'è un vuoto per quanto riguarda il tema dei diritti umani e dei diritti civili. Ecco, io non sento parlare di questo in questa campagna elettorale. L'impegno che chiederei è che si rimetta questo al di sopra di tutto. In particolare sono sei punti con battaglie anche storiche, se vogliamo. Puoi ricordarcene qualcuno? Innanzitutto la giustizia. Sappiamo bene quanto la giustizia sia poco democratica. Il processo penale sembra essere un diritto solo di chi ha potere, di chi ha denaro, e coloro che invece non possono permettersi di sostenere grosse spese non hanno di fatto diritto alla giustizia, l'abbiamo visto noi stessi. Ecco, la mia famiglia si è potuta permettere questi 8 anni di processo perché aveva una casa da ipotecare. Se non avessimo avuto i soldi, di fatto ci sarebbe stata negata la giustizia, perché la giustizia non va avanti da sola, ecco, questo è sempre più evidente. Recentemente è stata introdotta la legge sulle intercettazioni, che entrerà in vigore tra 6 mesi, se non erro. Ecco, io lo trovo assurdo, non so se tutti sanno di cosa stiamo parlando, io me la sono andata a vedere, non sono un'esperta, ma me la sono andata a vedere e me la sono fatta spiegare. Questa legge che disciplina le intercettazioni innanzitutto è un bavaglio al diritto di cronaca e al diritto di libertà di stampa, e poi conferisce il potere esclusivo alla polizia giudiziaria di ascoltarsi tutte le intercettazioni e scegliere al posto, valutare al posto del magistrato e quali hanno rilevanza e quale no. Questo comporta che se un comune cittadino vuole avere accesso a queste intercettazioni deve spendere un'enormità di soldi in avvocati che vadano lì e se le ascoltino una per una. Poi c'è la legge sul reato di tortura, anche questa è stata introdotta, ma non rispetta quello che era stato richiesto. Assolutamente no, nel nostro paese non siamo stati capaci dopo anni di introdurre una legge seria. Non abbiamo avuto il coraggio di introdurre questa legge e a mio avviso la legge di cui ci siamo dotati sarà oltre che inutile addirittura dannosa, e questo lo dico perché in quelle aree di giustizia ci ho passato gli ultimi 8 anni, e con una legge del genere non andremo da nessuna parte, assisteremo nuovamente a delle assoluzioni nascondendosi dietro il fatto che la legge è stata introdotta. C'è poi il codice identificativo, insomma anche questa è una vecchia richiesta, ma c'è anche una novità rispetto appunto magari a temi che abbiamo già sentito, un authority indipendente sui diritti umani. Esatto, ecco, noi quello che chiediamo è che si rimetta al primo posto il tema dei diritti umani, perché se non si parte da lì è inutile parlare di qualunque altra cosa.